si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si Può Fare. Buongiorno da Alessio Maurizi, stiamo insieme fino alle 10, un'occhiata ai giornali di oggi, tra pochissimo, e poi i nostri approfondimenti, le buone notizie come ogni sabato e domenica mattina per cominciare bene il weekend. Ve lo dico, parleremo subito di sanità, difficile trovare le buone notizie nella sanità quando la cronaca è dominata spesso purtroppo da casi di mala sanità o di presunta mala sanità. Insomma, è successo ancora questa settimana, mercoledì, un uomo di 68 anni è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli in barella nel pronto soccorso dopo aver avuto già un intervento chirurgico. E insomma, di 10 giorni fa la vicenda della neonata morta a Catania, perché all'ospedale non c'era posto nel tragitto, quindi con l'ambulanza tra un ospedale e l'altro. Il tema delle attese nei pronto soccorso è questo, e allora c'è una buona notizia che arriva dalla Puglia: un sistema per monitorare online i tempi di attesa negli ospedali, in particolare nei pronto soccorso. Una cosa molto semplice in realtà dal punto di vista, diciamo, della fattibilità, ma che può aiutare a scegliere in pochissimi secondi, anche in base a dove uno si trova in quel momento lì, l'ospedale meno intasato dove andare. Una buona notizia che viene dalla Puglia, ma c'è in realtà lo stesso sistema anche in Friuli. Sarebbe il caso che si dotassero di questo tutte le regioni italiane. Di questo parleremo più avanti dopo il giornale radio delle 8. Adesso cominciamo e andiamo sui giornali di oggi. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora eccoci qua, dunque, commenti sui dati positivi dell'Istat che prevede un PIL in crescita nel primo trimestre di quest'anno per l'Italia, la vera fine della recessione. Poi colpisce l'accoppiata con l'altro dato positivo economico dello spread, che torna sotto quota 100, una quota non solo simbolica, tanti soldi risparmiati sui titoli del debito pubblico, insomma sull'interesse che l'Italia paga sul proprio debito. Questo, ma anche altre notizie, tra cui la manifestazione della Lega oggi a Roma, preoccupazione per un po' per la sicurezza e altro, come per esempio il Corriere che titola così: il piano per la rete Telecom. Il passaggio alla fibra ottica per garantire internet più veloce a famiglie e imprese, pronto un decreto nelle mani del governo che potrebbe essere presentato martedì. L'Italia vede la ripresa, dicevamo, spread sotto 100 punti su il PIL. Altro titolo invece sul rischio attentati: Roma è un simbolo, lo dicono i servizi segreti. L'Italia e Roma restano un simbolo dell'Occidente, perché poi si avvicinano anche gli appuntamenti di richiamo internazionale come Expo. L'allarme arriva dai servizi segreti, che hanno consegnato al Parlamento la relazione annuale, aggiornata però ai fatti di Parigi di inizio 2015. La fotonotizia su Corriere è una foto dall'alto della zona dei nuovi grattacieli di Milano, tra cui il grattacielo più alto d'Italia, la Torre Unicredit, 231 metri, ed è il titolo è questo: la scalata del Qatar ai grattacieli di Milano, perché è di ieri la notizia che il Qatar, o meglio la Qatar Holding, che fa capo all'Emiro direttamente, ha acquistato tutta l'area dove ci sono tutti i nuovi grattacieli, tutti i nuovi palazzi appena costruiti. Dentro c'erano, a questo punto bisogna usare il passato remoto, c'erano anche imperfetto, scusate, perché sennò qualcuno poi dice che sbaglio, anche dei fondi italiani, insomma delle partecipazioni italiane, che però non ci sono più. Quindi diciamo questa punta di diamante, per come la si voglia vedere, dell'edilizia o comunque del cuore della città economica italiana di Milano, adesso sono completamente in mano al fondo del Qatar. Dicevamo poi invece, per quanto riguarda la manifestazione della Lega a Roma, centri sociali contro Salvini, feriti e fermi. Ci sono già state tensioni ieri, anche se la manifestazione ci sarà oggi. Centri sociali che contestano la scesa a Roma di Salvini, ma che in realtà si presentano come i migliori alleati, credo, almeno dal punto di vista mediatico, di Salvini, perché se non fosse per queste violenze non ne avrebbe parlato nessuno, credo, per ora, almeno di questa manifestazione. Ma è sempre così, è sempre la stessa storia. Dicevamo, insomma, buone notizie per l'economia italiana. Adesso vediamo, anzi vediamolo subito, titolo per esempio del Sole 24 Ore, che dice: spread sotto quota 100, mini crescita del prodotto interno lordo più 0,1%, l'Istat vede un primo trimestre positivo dopo 14 negativi o invariati. I commenti però ci fanno capire subito il tenore diciamo delle interpretazioni di questa notizia, perché il calo dello spread è solo un aiuto, non un alibi. Poi Fabrizio Forché scrive: il lavoro ancora da fare, il dividendo europeo e la serietà necessaria. A leggere i titoli, la giornata di ieri è da incorniciare: spread sotto i 100 punti ai minimi dal 2010 e PIL in segno positivo con la fine della recessione. Una abbinata da sogno, ma è già tempo di mettere lo spumante in frigo? Punto di domanda. La risposta ovviamente nel resto dell'editoriale è no. Ci sono ancora moltissime cose da fare sul fronte della semplificazione burocratica, sul fronte del sistema giudiziario, proprio per favorire, insomma, gli investimenti delle imprese. Ci sono commenti un po' da tutte le parti che dicono: attenzione, questa ripresa è sostanzialmente trainata dagli altri paesi europei grazie al nostro export e anche dalla ripresa dell'America, sempre grazie al nostro export, quindi stiamo cauti. Però insomma questa è il quadro positivo. Dove il quadro è meno positivo per il governo e per Renzi in particolare è in casa PD, dove ancora ieri è andata in scena l'ennesima frattura. Ormai i lettori, gli ascoltatori saranno stanchi, credo anche un po' nauseati di questa vicenda interna al PD, però fa parte delle dinamiche della politica, bisogna tenerne conto, anche perché dopo, diciamo, la rottura del patto del Nazareno con Forza Italia, adesso tutti i voti in casa della maggioranza del governo Renzi sono importanti per portare avanti le riforme, i tali come riforma del Senato in testa. Quindi grosse defezioni dentro il PD cominciano a diventare preoccupanti per Renzi, che riunisce, scrive il Corriere, il PD. Non cambio le riforme, i big della sinistra però disertano e attaccano. Ieri Gianni Cuperlo, lo sfidante di Renzi alle primarie, uno dei leader della minoranza del PD, ha scritto una lettera aperta a Renzi per spiegare i motivi di questa assenza alla riunione del PD e per fare delle proposte, tra cui, leggiamo, sono 6 punti. Il reddito di cittadinanza per chi rimane senza lavoro, un altro reddito, diciamo un sostegno al reddito per le famiglie bisognose, basta rinvii sui diritti civili, il Parlamento licenzi entro l'anno la legge sulle unioni gay, una delle priorità quindi della minoranza del PD è anche questa. Poi bisogna modificare la legge elettorale, l'Italicum, che è addirittura d'arrivo, e anche il DDL Boschi sulla riforma del Senato, e anche di questo i giornali sono stati pieni di notizie negli ultimi mesi. Quindi insomma un cambio di rotta a 360 gradi, o quasi, è quello che chiede il PD, dopo avere la minoranza del PD, dopo aver incassato a fatica il passaggio dei decreti attuativi sul Jobs Act, criticato ma votato da quasi tutta la minoranza del PD per senso di lealtà. Infatti quello che ricorda anche Cesare Damiano, ex sindacalista, responsabile, uno dei responsabili, insomma, dell'area del lavoro del PD, e che dice, insomma, Renzi ha fatto sì cose di sinistra come gli 80 euro, le tasse sulle rendite finanziarie, ma rendere i liberi i licenziamenti non mi sembra un'operazione di sinistra, anzi è di destra, e giù le solite critiche. E poi l'appello ai non renziani: facciamo battaglie comuni anche attraverso un patto di consultazione, cioè la federazione delle opposizioni interne al PD. Insomma, è una cosa da diventare quasi pazzi, però diciamo, questo è e di questo dobbiamo prendere atto naturalmente. Per quanto riguarda invece le notizie sulla trasformazione della rete Telecom italiana, il passaggio dal rame alla fibra ottica, dovrebbe arrivare in settimana un decreto al Consiglio dei Ministri. Lo anticipano sia Repubblica sia il Corriere, che scrive: pronto un decreto per la rete veloce Telecom. il passaggio dal rame alla fibra ottica avverrà entro il 2030, una data spostata in avanti di 6 anni, perché inizialmente si parlava invece del 2024. Si chiama, non senza inventiva, alla Renzi anche in questa volta, è RING, acronimo di Rete Italiana di Nuova Generazione, ma anche il suono del telefono nei fumetti, quindi RING sarà il nome di questo nuovo, diciamo, decreto legge che ora è in bozza, che riguarda la banda larga, che coinvolge in primis Telecom. Il piano prevede lo switch off, cioè l'abbandono della rete in rame, leggi dunque, di Telecom Italia entro il 2030, e quindi l'approdo alla fibra ottica. Ma rete pubblica o privata? È questo il punto su cui si ruota attorno, perché l'idea iniziale della bozza, contenuta anche nel programma di Matteo Renzi del 2012, era creare una rete pubblica. Adesso però nella bozza si parla di una architettura passiva, neutra e liberamente accessibile. Dunque, scrive il Corriere, dipenderà dallo scontro nell'azionariato e nella la governance di questa ultra banda larga. Insomma, la partita è aperta, e questa è la sfida di cui dovremo sentire parlare in settimana. Invece, per quanto riguarda la manifestazione della Lega, torniamo su questo, a Roma, su Repubblica, scontri tra agenti antagonisti, Salvini Day in fiamma a Roma, squadristi non mi fermerete, la replica di Salvini. Poi, vabbè, insomma, una foto di uno di questi manifestanti dei centri sociali, con la solita ironia romana: Salvini, Roma te schifa, scrivono, mai con Salvini. Vabbè, ironia e anche un po' di offese che cominciano a volare. E poi ci sarà anche Marine Le Pen, però in video messaggio dalla Francia. Diciamo, ormai la madrina di questa operazione a destra di avvicinamento tra la Lega e i movimenti di estrema destra come Casa Pound o di destra sociale di Giorgia Meloni, la madrina è proprio lei, Marine Le Pen, che interverrà in video, appunto, leggiamo, parlerà al raduno di oggi in Piazza del Popolo, a sottolineare il grande feeling con il suo alleato Salvini. La Le Pen si rivolgerà alla piazza con addosso una maglietta che riporta lo slogan della manifestazione: Renzi a casa. Sul palco ci sarà anche Giorgia Meloni, che dice: a questa manifestazione i padroni di casa sono i leghisti, ma sabato prossimo a Venezia le parti si invertiranno. Salvini parteciperà alla nostra manifestazione come ospite. Questo è il nucleo del fronte comune che stiamo costruendo contro Renzi. E verrebbe da dire, però, è anche, diciamo, la caduta dell'ultimo baluardo federalista in Italia, perché ormai, insomma, la Lega è diventata un partito a trazione nazionalista, ed è un cambiamento non da poco. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un istante sui giornali di oggi. E allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Torniamo sui giornali di oggi, sul tema per esempio di questa ripresa. Repubblica titola: effetto BCE sullo spread, scende sotto quota 100 e il PIL torna positivo. Però, come dicevamo, lo scrive anche il Sole 24 Ore, anche qua si dice: la ripresa c'è ma è troppo debole, a trainarla finora è solo l'export. L'intervista a Lucrezia Reichlin della London Business School, che dice: la ripresa dell'Italia è più anemica di quella della Spagna, della Francia e della Germania. Insomma, fa una serie di ragionamenti su come e perché la nostra ripresa sia appunto meno forte, soprattutto perché è trainata dalle esportazioni e non dalla domanda interna. A proposito, insomma, del fatto che il governo si incassa i risultati, cioè, diciamo, si prende i meriti di questa ripresa, lei dice: Renzi ha tanti meriti, sicuramente l'ottimismo aiuta, però a mente fredda non direi che si possa identificare un nesso tra le sue politiche e la ripresa. La ripresa italiana è correlata a quella delle altre economie europee e in parte anche da attribuire alla ripresa americana, molto robusta, busta e alle politiche della Banca Centrale Europea che hanno agito su tasso di cambio e costo del credito. Ancora al ribasso del prezzo del petrolio, bla bla bla, queste cose le abbiamo già sentite altre volte, eccetera eccetera. Bisogna continuare a lavorare oltre al Jobs Act, che sicuramente aiuta, vado sintetizzando l'intervista della Reichlin. Non scordiamoci che i fattori chiave per gli investitori sono la burocrazia, la corruzione e il sistema giudiziario. Ebbene, che poi insomma è la teoria, per esempio anche sul Libero, il titolo principale è "Il Viagra di Draghi fa alzare il PIL", un gioco diciamo di parole, non solo, con una metafora sessuale, fuori dalla recessione. Però grazie, scrive Libero, all'azione della BCE, lo spread crolla sotto i 100 punti, l'euro si svaluta sul dollaro, così arriva la ripresina, dopo 3 anni e mezzo si rivede il segno più, ma il lavoro soffre. Questo diciamo il punto di vista di Libero, ma torniamo su Repubblica per un interessante reportage da Londra. Chi era Jihadi John, uno degli uomini incappucciati ripresi nei video dell'ISIS, girati con tecnica filmica straordinaria per colpire la sensibilità degli occidentali, apparso in molti video, si è saputo l'altro giorno la sua vera identità, è un 27enne originario sì del Kuwait, ma fin da piccolo cresciuto tranquillamente a Londra. Allora, leggiamo. Sognava di fare gol tra gli amici del boia, era timido e alla moda. Il reportage di Ennio Franceschini da Londra. Da piccolo era sempre sorridente, poi però è diventato più timido e cupo. E non guardava in faccia le ragazze, si faceva i fatti suoi. Così parla una vicina di casa. Poi, era un ragazzino adorabile, sognava di fare il calciatore, non posso credere sia diventato un feroce assassino. Questa invece a parlare la maestra delle elementari di Jihadi John, boia del sedicente Stato Islamico, identificato dal Washington Post come Mohamed Mwazi, londinese di 27 anni, che esce da qui, scrive Franceschini. Linde, casette, viali alberati, automobili da classe media parcheggiate davanti, scuole che insegnano rigore accademico. È questa la vita vissuta a Londra da Jihadi John, quindi non emarginazione, periferie o storie di devianza. Arriva a Londra a 6 anni dal Kuwait, i genitori emigrano dopo la prima guerra del Golfo e qui c'è il primo legame tra la grande storia e questi casi di conversione personale al terrorismo. La grande storia, perché insomma la guerra del Golfo ce la ricordiamo tutti, ecco, i suoi genitori emigrano dal Kuwait per via di quella guerra. Arriva a Londra, il padre dirige una compagnia di tassisti, la madre è una casalinga col velo, religiosi ma moderati, scrivono Mohamed a una scuola elementare cristiana addirittura, quindi diciamo nel pieno solco di una possibile integrazione. Poi Mohamed studia informatica alla Westminster University, il campus si trova a Regent Street, chi conosce Londra sa che questo è il cuore della capitale, via dello shopping, studenti di mezzo mondo. Però lì Mohamed cambia, abbandona gli abiti firmati, si fa crescere la barba, frequenta una moschea radicale a Greenwich, è seguito dall'MI5, i servizi segreti britannici, che li adocchiano, li chiamano i London Boys, usano il football come copertura per parlare di guerra santa ed esercitarsi. Fa un viaggio nel 2009 in Tanzania, ufficialmente per fare un safari, torna a Londra e va a lavorare in una ONG, Cage, che qua c'è il secondo contatto con la grande storia. Sembra un romanzo, che Cage, l'ONG che difende gli islamici accusati di terrorismo e che è stata fondata da un ex detenuto di Guantanamo, la prigione oltre ogni limite voluta dagli americani per metterci dentro le persone accusate di terrorismo. E questa è la storia di Jihadi John. La stampa su questo tipo di, su questo argomento si incarica di darci anche un'altra importante notizia. Il titolo principale: le navi militari italiane si avvicinano alla Libia. Sono le navi militari partite da Spezia e da Taranto, facendo rotta verso la Libia, formalmente impegnate in una esercitazione ma pronte a intervenire in caso di necessità. È quello che scrive la stampa. Si tratta della Per esempio, tu scrivi a proposito della nave San Marco: tutto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. I militari del reggimento San Marco sono arrivati alla Spezia nel cuore della notte, trasferiti velocemente in una caserma della città, poi trasferiti sulla nave, e la nave è partita. Ufficialmente si tratta appunto di esercitazioni, però si fermeranno prima del confine sul mare, diciamo in mare, il confine tra l'Italia e la Libia, ma stanno lì. Non si sa mai ci fosse una precipitazione della situazione. Prima di chiudere, velocissimamente, la good news, una buona notizia della settimana, vai. And now the good news. Eh sì, non possiamo non dirlo, ci arriviamo qualche giorno dopo, perché si può fare, va in onda il sabato e la domenica, ma insomma la fine del segreto bancario nel Liechtenstein, dopo quello che è accaduto anche in Svizzera, e si avvicina anche la fine del segreto bancario per Monaco, è una buona notizia, non si può non dirlo. Certo, qualcuno potrà trasferire i soldi in altri paradisi fiscali ancora più lontani, ma i rischi per queste situazioni aumentano per chi vuole farla franca, perché si va più lontani, in paesi dove c'è meno sicurezza rispetto a Liechtenstein o alla Svizzera, quindi sicuramente qualcosa rientrerà di questi soldi, che sono non sempre ma molto spesso frutto di evasione. Ci fermiamo, giornale radio, torniamo subito dopo con Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, your silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass. Hey, hey. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo numerosi anche oggi per intervenire, commentare, giocare con noi. Sì signori, oggi 28 febbraio, Mario, stasera ci sarà al Cinema Mexico la prima milanese di Patria, lo devo dire perché sarò lì. È il film del quale vi abbiamo parlato in diretta, perché ve ne parlava sia Alessio sia io, che ho girato un annetto fa, sì, quando ero a Torino, tra Torino e Roma. È un film, il regista è Felice Farina e anche lui sarà stasera alle 21 presente al Mexico. In realtà è uscito già a Roma, io la settimana scorsa, sì, ero alla conferenza stampa, come ti ho raccontato, e è uscito a Roma giovedì e a Milano oggi. Un film patriottico. È un film patriottico, ma in realtà è un film che racconta un pezzo di storia d'Italia. L'ultimo, sì, è tratto liberamente tratto dal libro di De Aglio, che come, sì, ben sai, è un librone di 900 pagine, è una specie di catalogo di tutto quello che è accaduto negli ultimi 35 anni, da direi dal sequestro Moro ai giorni nostri. Siete su un tetto. Siamo su una torre, in realtà, una torre di una fabbrica, dove un sindacalista e un operaio di destra, diciamo la destra sociale, che decide di salire su questa torre per protestare, un sindacalista quindi invece di sinistra che sale anche lui su questa torre, e io che faccio, diciamo, lo scemo, sono un custode, un'assunzione obbligatoria, sì, con la sindrome di Asperger, quindi un autistico. Una scena che, insomma, adesso ce ne sono meno di casi di cronaca così, ma che insomma fino all'anno scorso direi è stato un po' il leitmotiv di questa crisi, operai, persone che salivano un po' sui tetti di tutte le fabbriche ma anche delle università, per così era diventato un po', vero, verissimo, il simbolo di quella crisi. Però c'è Kim Jong-un che twitta con noi e dice la pubblicità di Patria si può fare, sì, perché Radio 24, indipendentemente da quello che stavi raccontando tu, manda in onda la pubblicità di Patria. Ma io neanche sapevo che ci fosse la pubblicità. Città di Patria. Il film di Carlo Gabardini, che non ha fatto fare nemmeno un cameo ad Ale Maurizi. È questo, vero, è vero. Potevi farmi fare potevi chiedere al regista. Hai ragione. Sarebbe stata la mia prima e unica partecipazione. Sì, devo dire che sostanzialmente gli attori siamo in tre: sono Francesco Pannofino, Roberto Citran ed io, che saliamo in cima alla torre. Cari amici ascoltatori, oggi, che è la giornata, si celebra tra l'altro a Bologna, ne parleremo, l'Error Day, la giornata dell'errore. Oggi vogliamo, così, cioè, stuzzicare raccontarvi su questo. Cioè, raccontateci le vostre gaffe, i vostri errori epocali, ma anche a volte l'errore diventa fa nascere cose inattese e anche positive. Assolutamente, certo. Può succedere, no? Guarda, la mia vita è un errore dall'inizio alla fine, quindi evidentemente poi si riescono a fare anche delle cose. Non so, per esempio, Radio 24, due o tre errori. Uno è stato bellissimo, io questa la voglio raccontare. L'intervista a Re Afgano nel 2001, durante la crisi afghana, poi la guerra, eccetera. Non c'ero ancora. Andata io in onda per un bel po', era Giuseppe Cruciani che credeva di intervistare Re Afgano, invece era un ascoltatore. Questo dialogo surreale è andato avanti per qualche minuto, poi. Ma era uno scherzo? No. È stato un errore. Non è uno scherzo organizzato dalla radio, ma uno scherzo organizzato da qualcuno alla radio. È stato un errore che ha fatto gelare il sangue nelle vene, credo, a tutti i presenti che temevano le ire del direttore dell'epoca Zamboni, e invece poi adesso ci si può scherzare, è successo, insomma. E forse da lì poi è nata la zanzara con la carriera di Giuseppe, con le interviste, con gli imitatori. Io non lo so, è perché non ero ancora in radio. Diciamo, ci è voluto un po' di tempo, ma siamo arrivati lì. Poi, per esempio, adesso a me è incuriosito questa cosa qua. Il governo Renzi, che nasce da un sistema elettorale sostanzialmente sbagliato e da un errore, Calderoli lo definì un porcellum, è una porcata, perché fa maggioranze diverse alla Camera e al Senato, però guarda caso questo qui è l'unico governo che ha tolto l'articolo 18, cambiato la Costituzione, adesso ha inserito la responsabilità civile dei magistrati, cioè sta facendo tutte le riforme che gli altri prima non erano riusciti a fare. È ancora da scoprire se queste riforme siano buone o meno. Però, insomma, tant'è, da un errore è nato un governo super decisionista. 800 da un errore con i fiori? Sì. Citazione. Vabbè, citazione, sì, non è un errore, in realtà è da un'altra cosa che nascono i fiori, ma comunque non so se si può dire, è troppo presto la mattina ed è sabato, quindi evitiamo. No, ma lì era l'etame, si poteva dire. Che altro, cari ascoltatori? Quindi chiamateci, oggi il premio che mettiamo in palio per il racconto del vostro errore, la vostra gaffe più bella, all'800240024 è un premio che merita di essere raccontato velocemente, perché è fatto in associazione con i comuni virtuosi, che anche quest'anno celebrano il loro premio nazionale dei comuni virtuosi. Un premio al quale, insomma, tutti i comuni possono inviare la loro partecipazione entro il 31 di maggio con le loro buone pratiche locali in tema di ambiente, gestione del territorio, l'impronta ecologica della macchina comunale, i rifiuti con la raccolta differenziata o la mobilità sostenibile, i nuovi stili di vita sostenibili. Ecco, tutto questo confluisce in che cosa? Nel fatto che i comuni virtuosi, alcuni, ci mettono a disposizione dei premi, e oggi il premio, per esempio, è il cesto di prodotti biologici locali della cooperativa La Buona Terra. Siamo a Povegliano Veronese, uno di questi comuni virtuosi. Dico solo che cosa ha fatto questo comune per meritarsi la patente virtuosa: 7.000 abitanti, pannelli fotovoltaici sulla scuola media, risparmio nell'illuminazione con le luci a LED in tutta la città. Ah, però. Zone a 30 km di limite di velocità, piste ciclabili in aumento, due nuovi parchi in pochi anni. Insomma, questo è uno dei tanti comuni virtuosi che regala il cesto. Lo voglio anch'io il cesto. Oggi il cesto. Volevo anche ricordare agli ascoltatori che possono chiamarci anche per comunicarci errori, i grandi classici degli errori, sì, che sono gli strafalcioni nei cartelli o condominiali o stradali, o che hanno incontrato o che hanno scritto loro stessi. A volte si scrivono dei post-it che poi si rivedono anni dopo e ci si rende conto di aver scritto delle castronerie. Adesso andiamo in Puglia per parlare di una buona notizia che riguarda la sanità. Orre ne un po' strano, dilatato quanto l'ano, che per guadagnar sollievo ti darà un odore strano, ma non quanto lo straniero, che indeggenza un'indecenza gli farà. Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male? Idronefrosi con calcolo che sta ben posizionato, come un bimbo che non nato, dentro all'utero si gode il suo relax. Prima il pasticcere e la sua voglia di dormire, ma non era tanto male questo, no. Poi giunse il tennista e fu amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò dietro i suoi guai e gli odori che a nessuno augurerei. Voglia di andar via mi condusse alla follia, mentre crebbe in me un po' di xenofobia. Mamma mia, questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. E perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce. sul sito della Regione Puglia, sotto la pagina della sanità, è possibile trovare tutti i tempi di attesa degli ospedali e dei pronto soccorso, in particolare della regione. Quindi in tutte le città ci sono diversi ospedali, è possibile consultare con uno sguardo velocissimo i tempi di attesa e quindi decidere in pochissimi secondi eventualmente anche dove recarsi, dove fare meno fila. Ne parliamo con l'assessore alla sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia. Buongiorno. Pronto? Non ci sente. Adesso mettiamo su un ascoltatore, facciamo come con il re afgano e parliamo con qualcun altro. Che succede? Faccio regia? Io l'assessore? Sì, prova a fare il dialetto pugliese. No, è caduta la linea. È caduta la linea. Allora, intanto ne approfitto solamente per dire una cosa. Siccome giustamente prima, parlando del film Patria, che stasera è al Messico, ho detto faccio lo scemo e ho detto interpreto un personaggio che è autistico. Non sto dicendo che gli autistici siano scemi, ovviamente. È un fatto che lo scemo è stato definito così il personaggio da diverse critiche scritte sul film. Semplicemente che Francesco Pannofino chiama questo personaggio lo scemo. No, e poi in realtà è una roba che è sempre difficile, perché quando ho interpretato il matto in Si può fare, tra l'altro casualmente è un film che ha lo stesso titolo di questa trasmissione, ugualmente poi parlando con persone anche con problemi psichiatrici, loro fra di loro si chiamano tranquillissimamente matti e non c'è nessun problema, invece bisogna giustamente definirli disabili mentali o con problemi psichici. Però poi, insomma, prendo tutta la responsabilità e chiedo scusa, ovviamente. Ti dai dello stupido tutti i sabati e le domeniche qua dai nostri microfoni, quindi esatto. Da questo punto di vista non è un insulto per me, scemo, vorrei dire. Comunque chiedo scusa se ho offeso qualcuno. L'assessore, ce l'abbiamo? Donato Pentassuglia, buongiorno. Eccolo, l'avevamo perso. Buongiorno. Allora, la notizia, insomma, l'ho riepilogata io in pochi secondi. Insomma, la possibilità di consultare i tempi d'attesa degli ospedali. Una cosa tecnicamente non so quanto difficile o facile da realizzare, ma insomma, fino ad ora non ci avevano pensato in molti. Ci spieghi di che si tratta? Guardi, abbiamo voluto rendere davvero chiaro ed esigibile a tutti nell'accesso alle prestazioni, che è universale, anche la possibilità di valutare i tempi, specie per la nuova delibera messa in campo sulle malattie tempo dipendenti e la riorganizzazione di tutta la rete dei servizi di emergenza e urgenza. Abbiamo bisogno di rispondere a una esigenza importante di non attendere troppo al pronto soccorso senza che l'effetto dell'attenzione al triage metta nelle condizioni di verificare se stiamo parlando di un codice giallo, di un codice verde o di un codice rosso, che magari in maniera disattenta può provocare danni alle persone. Ora, ci sono già alcuni ascoltatori che per esempio all'SMS 3422386666 dicono guardate che questa cosa si fa per esempio anche a Genova, adesso non trovo l'SMS, all'ospedale credo San Martino. Pensavo persone che chiedessero come va in quel pronto soccorso lì, c'è posto, posso andare adesso? Anche possibile, ma non siamo noi quelli che devono rispondere. Ecco, sì, sicuramente so che anche una cosa del genere la sta facendo la Regione Friuli, però voi siete forse tra i primi che mettono a sistema questa cosa qua, cioè sul vostro sito, sul sito si trovano tutti gli ospedali della regione, tutti. Proprio relativamente a quello che ho detto prima, noi stiamo tentando di mettere in rete tutto quello che dal punto di vista innovativo il sistema offre. Nessuno scopre l'acqua calda, non l'ho fatto io, che tra l'altro sono assessore da appena 7 mesi, ma ho messo in campo una dinamica che è quella di utilizzare al meglio tutte le procedure. C'è il sistema Edotto che utilizza la regione, che dà tantissime opportunità, e tra quelle opportunità c'è anche questa, bisognava solo metterla in rete e farla fruire ai cittadini. A volte si tratta davvero di poco, io non sono tra coloro i quali ha scoperto chissà che cosa, ha solo applicato un sistema operativo ed applicativo che era già pagato dalla regione e non veniva utilizzato. Ma noi ne siamo infatti contentissimi, il fatto che sia già stato fatto da un'altra parte non è che sia squalificante per nessun motivo, quindi benissimo. Ci mancherebbe altro. È una buona notizia, anche se l'ha già fatto qualcuno. Sì, ma ci ho tenuto a sottolinearlo, perché molte volte diventa una cosa, diciamo, strana e paradossale, quella cosa naturalissima che è già prevista da un percorso di presa in carico e quindi dall'utilizzazione di risorse tecnologiche innovative che possono aiutare davvero il cittadino ad avere servizi a portata di mano e quindi a poter decidere, perché rispetto... Senta, però a questo proposito, no, diciamo, come servizio per il cittadino, è chiaro che questo sistema può agevolare nel momento in cui bisogna scegliere dove andare, di andare nel posto dove c'è minore attesa, e quindi come diceva lei, per le malattie, cioè, per le crisi tempo dipendenti, questo è fondamentale. Ma parlandone ieri con alcuni colleghi e amici, qualcuno diceva: ma non è che questa cosa potrebbe addirittura incentivare chi già si parla di un abuso, di un accesso, di un eccesso di utilizzo del pronto soccorso, vedendo che non c'è coda, dice quasi mi faccio un giro, mi faccio dare un'occhiata, che ne so, a oculistica. Allora, rimane sempre un aspetto di un processo culturale che va coltivato quotidianamente, va aiutato ad essere un percorso virtuoso, perché la inappropriatezza di accesso al pronto soccorso, dai dati nazionali che discutiamo in Commissione Salute a quelli che la mia regione ha potuto valutare, oscillano sempre tra il 30 e il 35% di media. Se viene attuato un buon triage, quindi una buona attenzione in accesso al pronto soccorso, chi ha diciamo, la funzione di personale dedicato a questa funzione stessa può verificare se si tratta di codice verde, codice bianco addirittura, e quindi che non deve passare per niente dal pronto soccorso, e questa situazione può essere legittimata ed aiutata anche dal lavoro che parallelamente, per esempio, noi come Regione Puglia stiamo facendo insieme ai medici di medicina generale, con i gruppi rafforzati o addirittura le case della salute, perché garantiamo in strutture pubbliche un servizio H24 che evita l'accesso improprio, inappropriato al pronto soccorso, dove poi le file vengono costruite, perché bisogna fare attenzione agli esami che vanno espletati e soprattutto a un pezzo di medicina difensiva, perché anche i medici hanno paura, ma qui, senza scaricare responsabilità su nessuno, ognuno di noi nel fare la sua parte deve stare attento, e quindi tutta la filiera istituzionale deve funzionare, perché è ingiusto scaricare sul pronto soccorso. Vorrei solo ricordare, per esempio, che la Puglia, come altre regioni, ma a differenza di tante altre che hanno personale in più e possono smaltirlo entro il 31/12/2020, noi siamo venuti fuori da qualche mese da un blocco del turnover, siamo stati 3 anni senza poter sostituire il personale che è andato via, quindi alla carenza di personale e all'accesso improprio del pronto soccorso poi scoppiano, tutte quelle cose, che le file, tutti gli accessi impropri, che non danno quella qualità di servizi su cui questo processo culturale deve lavorare, e ognuno di noi deve fare la sua parte da cittadino attivo. Tra l'altro ci è arrivata anche una mail di un ascoltatore che lamenta, insomma, che nell'introduzione di questa notizia io avrei lasciato intendere che, insomma, per una volta la Puglia ne ha combinata una buona. Invece non era questa l'intenzione, forse è uscita male, il modo in cui ho operato. Perché tra l'altro, mi faccia dire una cosa, perché tra l'altro siamo stati noi tra i primi a raccontare quando proprio in Puglia voi avete dato il via libera, per esempio, agli esami negli ospedali anche nelle fasce orari serali o addirittura notturne, un'altra, buona pratica della sanità che non c'è solo in Puglia ma anche in altre regioni, ma che voi avete messo in piedi da poco. Sì, allora, questa pratica, questo progetto l'ha messo in campo il mio predecessore, l'assessore Gentile. Devo dire che, data la carenza di personale, perché poi bisogna garantire il contratto, i turni di lavoro, noi non avevamo il personale per fare, davvero l'H24 e lavorare con alcune patologie, soprattutto per alcuni esami, il sabato e la domenica anche di notte. Altre regioni del nord che hanno personale a sufficienza lo hanno fatto subito dopo di noi e hanno avuto i titoloni. Questo pazienza, è un'altra buona pratica e buona prassi che noi abbiamo messo in campo e che stiamo tutelando, a favore del cittadino. Non siamo una regione canaglia, siamo pure usciti dal piano di rientro. Vogliamo pure solo la certezza delle risorse, perché questo è un tema delicatissimo che apre a scenari, sapendo che abbiamo firmato il patto della salute. Vabbè, questo è un altro capitolo. A questo, perché se tu non investi sul personale e le attrezzature, alla fine è il cane che si morde la coda, perché tu puoi dare tanto servizio, un accesso diretto alle prestazioni in maniera universale, ma non puoi garantire tutto il percorso appropriativo della ricerca di salute. Va bene, noi ci fermiamo invece su questa notizia, grazie all'assessore alla sanità pugliese Pentassuglia. Grazie mille. La notizia della trasparenza sui tempi d'attesa reali nei pronto soccorsi degli ospedali pugliesi, una piccola, insomma, beh, buona, però è una bellissima notizia, sì. Anche quelli che dicono che si fa in altri posti, io comunque che sono invece milanese e lombardo, mi piacerebbe, e anche ipocondriaco, mi piacerebbe moltissimo che ci fosse anche a Milano questa possibilità. A Milano, che sapere. Io sappia, per esempio, c'è su alcuni ospedali, ma non su tutti. Poi... ma la roba interessante è metterli in rete, esatto, se no io devo andarmi a aprire tutti i cose, poi farmi una tabella di Excel da solo a casa mia per capire dov'è che mi potrebbero curare il mal di pancia meglio. 800 24 00 24, se volete raccontarci come e perché anche nelle vostre città o nella vostra regione accade qualcosa del genere, però a quanto ci risulta, facendo una piccola inchiesta nostra, questa stessa cosa avviene in parte in Lazio e in parte forse in Friuli, se no in alcune città, ma a livello regionale c'è solo la Puglia a farlo. Ci sentiamo tra poco, facciamo una brevissima pausa, poi torniamo, vogliamo anche i vostri errori, le vostre gaffe, cari ascoltatori, oggi nell'Error Day. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24, cari ascoltatori. Abbiamo Concetta che chiama da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa voleva dire Concetta? Niente, volevo parlare della mia gas. Ah. Beh, non è niente, è qualcosa. Noi siamo tutti orecchi, non vediamo l'ora. Lei è stata protagonista di una gaffe epocale? Sì, epocale proprio. Me la ricordo tuttora, sono passati 10 anni. Ah, però, che successe? Niente, ero lì che pulivo dei tavolini, lavoravo in un bar, di sera, verso le 8 di sera, così vedo che stava arrivando una coppia, si fermano e mi chiedono se il bar è aperto o chiuso. Allora io mi sono girato, ho visto il personaggio, ho detto, oh, ma lei è Arnaldo Foà, con un entusiasmo. Allora la signora accanto mi guarda e mi fa, ma no, ma lui è lui, gli dà una gomitata e gli fa, no, ha ragione la signora, ha ragione. E invece era Dario Fo, è una cosa che... No, cioè, aveva confuso Arnaldo Foà con Dario Fo. No, ma io sapevo che era... Ha sbagliato il nome. Fo, certo. Però nella foga così ho detto Arnaldo Fo. Cioè, presa dall'emozione di trovarsi di fronte a Dario Fo. Ma la parte più bella è Dario Fo che comunque dalla gomitata e dice non stava a dir niente, facciamo finta di essere Arnaldo Foà, sì, è tanto. Infatti mi sono sentita più una merda proprio per quel lavoro lì, proprio perché mi ha Concetta, mi ha una cosa simile così. È successa anche a me una volta quando ho conosciuto Saviano, Roberto Saviano, sono andato incontro stringendogli la mano, è venuto qua a Radio 24, al Sole 24 e l'hai detto, lei è Fabio Volo? E gli ho detto, no, piacere, Corrado, sono molto contento di conoscerti, Corrado, gli ho detto 2 volte Corrado, lui mi ha guardato, poi io dopo ci ho ripensato alla scena surreale, si è corrato così. Pensavi fosse Corrado Saiano? È l'emozione, Concetta. Comunque, grazie. Vabbè. Grazie mille. Prego. E poi, poi com'è finita poi? Ne siete usciti in qualche modo? Sì. Sì, dopo mi hanno salutato, io non sono andata neanche in teatro perché quella sera lì ero in teatro qui da noi e non ci sono neanche andata. Però hai capito poi subito che era lui, Dario Fo. Sì, perché c'era e anche che avevi sbagliato. Cioè c'erano anche i cartelloni in città, no, probabilmente. Io me ne sono accorto subito quando lui ha dato la gomitata a lei, cioè me ne sono subito detto no, è stata una scena veramente, va bene. Grazie, complimenti, Concetta. Complimenti. Continuiamo. È il primo racconto? Beh, divertente. È divertente, ma è divertente il gioco. Voglio sentire gaff su gaff, anche perché di solito sono io quello che faccio le gaff, quindi sentire che le fa anche qualcun altro mi rende felice. Non ho capito cosa mi sta dicendo Claudio Schiettone dalla redazione. Facciamo subito l'ascoltatore. Claudio da Viterbo. Buongiorno, Claudio. Questo mi stavo dicendo, di buongiorno. Parlare con gli ascoltatori. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno, niente, io volevo parlare della gaffa di Gabardini, però ne avete già parlato voi. No, ma mi sgridi che mi fa bene. No, vabbè, no, io lo dico simpaticamente, perché siccome sei molto simpatico e sempre dici, prima di dire una cosa intelligente, dici sono lo scemo dei due, ci stava che anche oggi dicessi, facevo lo scemo e poi in realtà ti è scappato di dire facevo lo scemo e in realtà facevi un personaggio autistico. Esatto. Quindi, sono lo scemo dei tre nel film. era assolutamente una gaffe. Sì, sì, hai ragione. Ha ragione, chiedo scusa, ho già chiesto scusa. Come ho detto prima, non penso sia così sbagliato, però giustamente se urta delle sensibilità ci mancherebbe altro. Era in realtà un modo per aprire il gioco all'Error Day, cioè per far vedere che anche noi in diretta facciamo delle gaffe. Grazie Claudio, buona giornata. Traffico. Città. Son come una formica nella folla dell'umanità che corre qua e là a gran velocità con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera che colore ha. Amici non ne ho e parlo per lo più con l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna. La civiltà è bella ma, viva la campagna, che mi dà un arcobaleno sereno l'odore. Chissà cosa direbbe oggi Nino Ferrer del fatto che insomma la campagna arretra a favore della città. Ormai oggi non si scriverebbe neanche più una canzone su questo tema, perché ormai si dà per scontato che la città abbia completamente mangiato la campagna, definitivamente preso il posto della campagna. Ma non lo so, sta tornando la campagna. Sta tornando, c'è chi resiste. È uno dei temi naturalmente di Expo. E allora sta per spuntare un campo di grano tra i grattacieli milanesi nel pieno cuore della esposizione universale che si terrà dal 1° di maggio nella città lombarda. Ne parliamo con Kelly Russell, che è il direttore della fondazione Riccardo Catella. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, se non sbaglio, proprio oggi dovrebbe avvenire la semina del grano in mezzo alla città di Milano. Ma è un fatto? È così? Sì, oggi pomeriggio dalle 2 alle 4. Quindi infatti, i giornali hanno titolato così: torna il grano in mezzo alla città. Ma sarà una cosa solo simbolica oppure poi lo raccoglierete anche questo grano? Ma la raccolta è prevista per luglio, poi con gli agronomi che ci stanno seguendo il progetto faremo tutte le analisi del caso da qui a fine luglio per capire se il grano se è un grano inquinato oppure no. No, o se è un grano che può essere ingerito da umani o se è un grano che può essere dato agli animali che poi fa parte della catena alimentare del latte. Ma come mai potrebbe essere un grano, diciamo, non adatto buono. Agli umani, non buono? Ma siamo a Milano, quindi ovviamente con le macchine che passano nelle strade, anche se uno parla con gli agronomi, loro dicono che uno pensa che la campagna sia molto più pulita di quanto effettivamente sì. È vero, è vero, perché anche perché si dice che invece gli orti in città funzionano sì. I prodotti, diciamo, anch'io ho sentito piantati dire negli agronomi in città non sono particolarmente perché inquinati. Perché l'inquinamento si poserebbe solo sulla buccia, solo sulla superficie della frutta, nel caso della frutta, ma nel caso del grano lo scopriremo tra un po', tra qualche mese. Spiega però intanto, Kelly, di che cosa stiamo parlando. Cioè siamo all'interno di Expo, una manifestazione di sapore simbolico, ma che avrà anche un grosso impatto, no? Perché parliamo di un quadrilatero di terra importante. Quanto è grosso? 50.000 metri quadri. Ed è, diciamo, quello che dovrebbe essere un futuro, poi diventerà un giardino nel centro di Milano. Allora, per questo periodo temporaneo sì. Noi Fondazione Catella con la Fondazione Sfruttata e Confagricoltura abbiamo chiesto a quest'artista Agnes Dennis, che è di origine ungherese però adesso vive a New York da tanti anni, di dare questo segnale al mondo usando questo terreno nel frattempo per piantare questo grano, per tutti di ritornare al pensiero della sostenibilità e che effettivamente la terra deve essere anche usata per il tema dell'Expo, che è nutrire il pianeta. Poi finito il periodo di Expo, ovviamente c'è la raccolta a luglio, poi noi abbiamo deciso di piantumare, che non fa parte dell'opera d'arte, però abbiamo deciso di piantumare l'erba medica insieme al grano per far sì che dopo la raccolta ci sarà un grande prato verde dell'erba medica. Cioè, se qualcuno si sente male per via del grano, gli date un po' d'erba medica per curarlo. Esatto. Potrebbe esatto. essere questo. E poi da novembre partono i lavori per il futuro parco, la biblioteca degli alberi. La biblioteca degli alberi. Mi scusi, progetto importantissimo questo per Milano. Ma non ho capito se siete voi che avete deciso, diciamo, di piantare il grano, oppure avete chiamato un artista affinché lo facesse, o avete chiesto a un artista di fare un'installazione in quella zona? Ma no, noi abbiamo chiesto all'artista di fare un'installazione nella zona. Lei aveva già, noi avevamo questo terreno libero e abbiamo avuto vari pensieri legato a questo. Quindi il grano l'ha scelto l'artista, che fa quel tipo di installazioni già. No, perché sennò mi chiedevo, se uno vuole piantare del grano, io più che un artista chiamerei un contadino. È questo che mi chiedevo. No, però lei aveva già fatto questo, il tema del land art. Sì. E lei non si considera un land artist, perché a volte il land art può essere molto violento. Lei lo considera un'opera ambientale, è un tipo di non so, statement verso il mondo che si usa negli ultimi 50 anni. E lei ha fatto questa opera nell'82 a New York già una volta. Sì. Quindi quando noi abbiamo contattato la Fondazione su Sardi, lei ha contattato l'artista Agnes Dennis e lei ha accettato al volo di fare questo intervento, anche perché quest'area a Milano è molto più ampia che non quello che era piantumato a New York. Avete parlato con l'emiro del Qatar, che si è comprato tutti i grattacieli là attorno, per avvertirlo che... che no. diventerà una zona agricola, che ha comprato dei grattacieli in una zona agricola? Non credo che lui sarà al corrente di questo, però quello che a lui interessa è che avrà il parco finale e quello che poi sarà aperto ai cittadini. Senta, ma secondo lei si sta centrando il tema dell'Expo? Cioè, voi ci state provando naturalmente con questa installazione, diciamo, molto bella, anche sarà un bel impatto visivo. Chi girerà il centro di Milano in quel punto lì si troverà a fianco tutte queste spighe di grano, speriamo, bellissime. Più in generale... Allora, il progetto della fondazione prevede quest'area dell'opera di Wheatfield e poi noi avremo anche un'area di orto dove noi faremo delle attività didattiche dedicate ai bambini e alle famiglie, perché così loro possono capire qual è il processo completo della crescita della frutta e verdura, che tanti bambini che vivono in città non sanno questo, pensano che uno compra la zucchina già impacchettata da sé lunga. Quindi il nostro, quello che noi vorremmo cercare di fare è fare un segnale per l'Expo che coinvolge le famiglie, i bambini e le persone che possono toccare con mano cosa vuol dire agricoltura urbana e orti in città. Quindi saranno più questi eventi collaterali, insomma, a dare un po' il senso diffuso di cosa vuol dire nutrire il pianeta. Carlo, volevi dire? Sì, volevo chiedere una cosa. Mi scusi, io non me ne intendo di grano, perché non ho, è un sacco che non pianto del grano. Però diversi nostri ascoltatori ci fanno notare che il grano non si semina a febbraio, cioè si semina a novembre. Giusto? Sì, è vero. Ottobre. È vero. E quindi maturerà o non maturerà? Perché o è il solito ritardo di Expo? O è grano geneticamente modificato? No, noi abbiamo scelto un grano, un specie di grano che si chiama Odissea. Può essere sincero, non è Odissea? Che io sono una donna, ma io sono direttrice della Fondazione Catella, quindi non sono donna. Però è un grano che si chiama Odissea, che può anche essere piantumato in questo periodo. Ok. E non si sa se non si sa quando finisce. Se si chiama Odissea, direi che è indicativo. va avanti per sempre, no? Però che non è un grano che diventa altissimo, dovrebbe avere un'altezza intorno a 80 centimetri. Ah, piccolino. Sì. E che dovrebbe maturare in tempo. Questo è quello che si spera a tutti. Speriamo. Va bene. Grazie mille. Grazie della Fondazione Catella. Sì. Venite tutti i cittadini a seminare con noi dalle 2 alle 4 oggi pomeriggio lì in via De Castiglia 28. L'avremmo ricordato al termine della telefonata. L'invito è sicuramente divertente. Grazie. Tutti a seminare mille. Il grano nel centro di Milano oggi pomeriggio. Mi sembra anche indicativo. A Milano, la città che si occupa fondamentalmente dei soldi, si semina il grano. Poi da non straniere poteva diverso, essere così. Però insomma, esatto. Giornale Radio, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Sway, sway. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Fashion. Step into the room. questa è Si può fare. Questa che avete ascoltato è Fashion di Lady Gaga, che è il nostro Si può fare in musica, canzone segnalataci dalla nostra ascoltatrice Donatella Schiavi. Vi ricordiamo che potete sempre segnalarci i vostri Si può fare in musica, che noi stiamo cercando. Quindi sono delle musiche, delle canzoni che secondo voi in qualche modo racchiudono il concetto di Si può fare. Lo potete fare sui nostri social, quindi Si può fare. Dico troppe volte fare, però, perché già si chiama Si può fare, lo potete fare. In effetti sto dicendo troppe volte fare. Comunque, o cambiamo social, titolo al programma, oppure non lo esatto, so. Su Facebook, che Si può fare trattino Radio 24, o sul nostro account di Twitter, che è @sipuofare24, oppure sui nostri account personali, sempre di Twitter. Il mio è @CarloGabardini. E il mio @AleMaurizzi. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, aspettiamo i vostri interventi questa mattina. Intanto c'è un SMS che dice: sono un agricoltore, non esiste un frumento alto 80 centimetri. Orca, lapidario. Allora, mi cogli impreparato sul frumento. Siamo tutti un po' impreparati sul frumento. Allora io chiederei, guarda, veloce su Twitter al nostro ascoltatore twittarolo del sabato mattina, che sta nel campo di ulivi e di vite, di dirci la sua. Credo in Puglia, non ricordo esattamente. Luigi Carella, lo convochiamo seduta stante. Twittaci un po'. È vero che non esiste un frumento alto 80 centimetri? Perché allora dobbiamo richiamare Kelly Russell. E se chiami dalla Puglia, secondo me, già che ci sei, se ci dici anche come stiamo, come ortopedia, se c'è un posto libero a ortopedia. Allora, e io invece volevo sì. anche ricordare, non so se l'hai già detto prima durante la rassegna stampa, nel caso ti chiedo scusa, volevo ricordare Leonard Nimoy, il dottor Spock, che è mancato, l'attore Leonard Nimoy che interpretava il dottor Spock in Star Trek, è mancato stanotte, aveva 83 anni, lo ricordiamo con affetto estremo. Allora, anzi, ricordiamo il suo ultimo tweet, scusami, perché il dottor Spock, il suo ultimo tweet è stato: una vita è come un giardino, momenti perfetti si possono vivere ma non preservare se non nella memoria, lunga vita e prosperità, che era il suo saluto. Abbiamo Piero che ci chiama da Roma. Buongiorno Piero. Buongiorno. Buongiorno. Cosa ci voleva raccontare Piero? Dunque, io tanti anni fa, quando avevo i bambini che andavano alle elementari, a parlare con la maestra, di solito ci andava mia moglie, e la prima volta che ci sono andato io mi presento alla maestra e gli dico: io sono la mamma di Luca. Poi mi sono subito corretto, gli ho detto: no, sono il papà. Cioè, esordito così in maniera catastrofica di fronte alla, esatto, alla maestra. Vabbè, per difendersi, ma è per difendersi, è corretto, perché la mamma, uno dice: guai, sono la mamma, quindi posso decidere qualunque cosa. Mi sembra molto giusto. Non era gravissima, non era gravissima come gaffe. Sono diventato rosso, ecco, quando l'ho detto. Immagino. Grazie Piero. Grazie mille. Allora, poi vediamo, insomma, oggi mettiamo in palio, lo voglio ricordare, perché grazie all'Associazione dei Comuni Virtuosi che oggi abbiamo i nostri premi, una cesta di prodotti biologici locali, siamo a Povegliano Veronese, comune virtuoso, in occasione del bando del premio nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi. Se siete un sindaco o un assessore interessato ad aderire a questo bando, il comune vincitore vince tra l'altro un assegno di 4.000 euro, andate sul sito dell'Associazione Comuni Virtuosi. Io sono interessato al cesto che regaliamo noi, infatti vorrei concorrere con la mia gaffe precedente su un film patria e sul fatto che ho detto scemo, vorrei concorrere anch'io al concorso sperando di portarmi a casa il cesto. Però dovresti uscire e andare a digitare il numerino verde e chiamare per ragione. Me se è ancora in tempo, faccio, abbiamo adesso lo faccio. Una quarantina di minuti. Francesco da Trapani, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io desideravo fare un piccolo intervento sull'assessore che ha pubblicato i tempi di attesa dei pronti soccorso. Sì. In questa maniera, in Puglia, diciamo sì. così, quasi indicando il pronto soccorso che è meno, tra virgolette, oberato di lavoro. Sì. Quelli naturalmente sono da intendersi come dei tempi fittizi, perché essendo io un operatore che lavora nei pronti soccorso, basta un codice rosso o dei codici gialli che si infila in mezzo e tutti i tempi sbagliano, ovvio. Però il problema è la comunicazione che viene data all'utente finale, ed è un'informazione errata, io posso capire che a livello statistico alla fine dell'anno vengano dati i tempi medi di attesa. Però scusi, perché errata? No, cioè, non è errata, è comunque indicativa. Non è viene messo online quella cosa che hanno di fronte a loro anche le persone che aspettano nella sala di attesa con lo stato reale, cioè se arriva un codice rosso viene segnalato e quindi il codice verde aspetta ancora di più. Però è quello che vedono anche le persone che aspettano in sala d'attesa. Lei che lavoro fa, tra l'altro? Ha detto, è un operatore? Infermiere. Perché, allora, sì. Le spiego. Ci spieghi. Il tempo di esecuzione di una prestazione varia da patologia a patologia, per cui mettere i tempi di attesa, una cosa è dire sono previsioni, persone, chiaro. Una cosa è dire ho 10 persone in lista di attesa, una cosa è dire lei entrerà a tale ora. No, certo. Ma lei scusi, lei da dove chiama esattamente? Da Trapani. Da che pronto soccorso chiama? Quindi no, esatto. Quindi uno no. Solo, ce n'è soltanto uno. No, però ha ragione, non è una questione di tempo, è una questione sito, di persone. No, attenzione, perché sul sito non ci sono scritti i tempi, ci sono scritti esattamente quante persone stanno aspettando. Quanti codici verdi, quindi codice. Tu sai che se arrivi lì hai davanti altri 8 codici verdi, fermo restando che un codice rosso ti passerà davanti, ovviamente. Esatto. Purtroppo l'utenza alle volte non riesce a distinguere tra quello che è il codice verde con una complessità assistenziale maggiore rispetto che a un codice giallo che magari in realtà... Sì, però vede Francesco, questo è un discorso di interpretazione da parte delle persone che devono essere preparate, avere la cultura, l'intelligenza per capire la situazione, ma per capire bisogna partire dai dati. La Puglia adesso ti dà i dati per capire, poi se tu riesci a interpretare correttamente o no, questo è un altro paio di maniche. È comunque un'indicazione, ecco, in questo senso, non ti danno l'orario esatto perché sarebbe folle dirti lei è dentro alle 15:03. Gianni da Siena, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Bentrovati, buongiorno. Prego. Io volevo mettere su pubblica piazza praticamente a questo punto la mia figuretta fatta con... Figuretta, tra l'altro, Gianni, è toscano o si dice anche fuori dalla Toscana? Ma io non lo so, io... Io sono toscano come lei, noi si dice figuretta, ho fatto una figuretta. Ho fatto una figuretta. Per dire una cosa. Direi che a Milano si dice ho fatto una figuraccia. Da qualche parte si dice anche ho fatto un figurone, però insomma, ecco, diciamo... Ci racconti la sua figuretta? Allora, io abito in un paesino vicino al paese, diciamo, nativo della Rosi Bindi. Una mattina mi trovavo in questo paese andando a fare colazione in un bar del posto, mentre io entravo, lei usciva. E così, gentilmente, lì ho aperto la porta, l'ho fatta passare dal locale, l'ho cordialmente salutata. E lei non ha neanche risposto, immagino. No, assolutamente, ha risposto in maniera molto cortese, assolutamente. Quando sono uscito sono andato in un negozio lì di fronte, un negozio di un mio amico, sì. E c'era anche un conoscente, cioè, siamo lì del posto, paesino piccolo, bene o male ci si conosce tutti, anche se così di vista. E ho raccontato di questa cosa che era avvenuta. Poi io, essendo legittimamente della parte opposta politicamente, sì, ho iniziato a dire peste e cose. Fatto qualche battutaccia. Qual è la parte opposta a Rosi Bindi, mi interessa? Beh, il centrodestra, dai. Diciamo, ecco, ora volendolo dire centrodestra, anche se ormai non si capisce più nulla. Esatto, questo volevo cercare di capire. Però arriviamo al dunque, perché sennò tra un po' dobbiamo dare il taffo. Andiamo a quagliare. Sì. Io ho esposto, insomma, tutte le mie belle... Le sue idee su Rosi Bindi. Ma assolutamente sì, proprio così, proprio spontaneamente, in maniera molto toscana. Ma ce le ripeta, ce le ripeta. Ma non posso, siamo insomma in una fascia protetta, non posso assolutamente. A un certo punto il secondo ragazzo, il conoscente, mi fa parlare per 5 minuti, poi mi fa: Gianni, adesso basta. Dico: che succede? Rosi Bindi è la mia zia. Stava parlando male di Rosi Bindi al nipote di Rosi. Però sì, anche lei, questa è una bella gaffa. Si ritrova in un posto dove sono tutti parenti di Rosi Bindi, è un bel diciamo rischio. Ma quanti nipoti ha Rosi Bindi? Tanti? Oppure lei è stato sfortunato? No, insomma, ma io non lo so quante ne posso avere. Amici interessati, molti parenti, non so, ne avrà qualcuno sicuramente da quelle parti. Però ecco, questo mi era passato proprio in secondo piano. Che va bene, grazie. Perfetto. Gianni, e un saluto a Rosi Bindi anche. Un vai. Saluto a Rosi Bindi alla Toscana, e sei assolutamente iscritto al nostro concorso. Racconta la tua gaffe peggiore. Traffico. Questa Wrong Day Depeche Mode, stiamo per andare a Bologna, dove oggi si celebra proprio l'Error Day. Prima però voglio dirvi intanto un tweet di Kim Jong-un, che ci segue anche lui moltissimo, e che sul grano dice: grano alto 85 centimetri esiste, e posta una foto di una, come dire, di una grafica che parla di questo tipo di grano che sarebbe alto 85-90 centimetri, e ce lo conferma anche Italo all'SMS: la variante di frumento Triticum vanno da 40 a 80 centimetri. Quindi, e c'è anche chi dice il frumento senatore Cappelli arriva a 120 centimetri. Senatore? Cappelli. Ma pensa che nomi che hanno i frumenti. Beh, senatore Cappelli, in realtà, almeno se è quello che conosco io, è anche una pasta che esiste, che è una pasta buonissima. Poi, oddio, forse non si Cappello poteva dire. Cappello di prete? No, perché... cos'è? No, proprio esiste la pasta senatore Cappelli. Va bene, allora, adesso, come detto, siamo a Bologna per parlare dell'Error Day che si celebra oggi nella città, la giornata dell'errore. Ne parliamo con Clelia Sedda. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ideatrice di questa originale manifestazione che è giunta alla che edizione? Seconda edizione. E questa sarà la prima giornata dedicata alla scienza dell'inganno e l'inganno della scienza, una specie di convivio su medicina, errore e illusioni percettive. Dobbiamo stare attenti mentre lei parla che mette lì qualche errore. Qualche errore? Certo. Non ci fidiamo. Mondiale. Nel senso che ovviamente la giornata non è oggi, perché sennò non sarebbe un errore, giusto? Esatto, dovrebbe essere il 29 febbraio. Esatto, spieghiamo questa cosa che è bellissima, perché già la scelta del giorno la trovo straordinaria. Sentiamo, 29 febbraio, sentiamo. Siccome c'è solamente una volta nei 4 anni. Prego, prego. No, io ne volevo fare il 29 febbraio e ovviamente la facciamo oggi. Poi stanotte ci sarà anche la festa dei nati sbagliati, che inizia a mezzanotte e finisce a mezzanotte. Quelli nati il 29 febbraio, lo ricordiamo, i nati sbagliati. Noi ce l'abbiamo uno vero a Radio 24? C'è Carlo Genta, il nostro Carlo Genta. Sì. Quindi un saluto anche a Carlo Genta. Tutti ce l'hanno. Un amico nato sbagliato. Sì, anche nato il 29 febbraio. Passiamo alla seconda edizione, appunto dedicata alla medicina d'errore, però la cosa che mi interessava mettere in evidenza è il fatto che l'errore è la parte positiva dell'errore, cioè quando l'errore, che secondo me è una grande particella di verità, perché la verità è temporanea, non è che esiste sempre, la verità di oggi è l'errore di domani, lo dimostra anche la scienza, no? La cosa che mi interessava mettere in evidenza è la parte positiva dell'errore, cioè io sono passata, come tanti credo, da un fallimento all'altro con grandissimo entusiasmo. Ah sì, proprio così, cioè arrivavano delle tronate e lei le prendeva tutte con allegria, giustamente. Guardi, c'è una bellissima... Io non sono credente, sono credulona, credo tutte le religioni, compreso l'ateismo, no? E c'è una figura molto bella, quella di San Paolo, che era una persona orrenda, un essere terribile che andava in giro a uccidere la gente, cade dal cavallo, cioè... ha un incidente e diventa santo, San Paolo, perché si rende conto di quanto era cretino quando proprio un dolore fisico, un dolore forte. Noi ci rendiamo conto di certe cose solo quando sbattiamo la testa, noi impariamo a camminare solo quando inciampiamo nella vita. L'errore è parte della nostra condizione umana, non è un limite momentaneo. Quindi non dobbiamo spaventarci, scoraggiarci, assolutamente. La verità di oggi è l'errore di domani, l'errore di oggi è la verità di domani, quindi. Esatto. È il caso che voi avete un po' preso a cuore di questa edizione dell'Error Day di Bologna. Sì? Sta dicendo lei, quello delle medicine nate per errore. Celeberrima è la storia della penicillina e la muffa. Ce ne sono altre, sono storie ce ne sono un'infinità. C'è il raggi X, per esempio, che sono nati durante un esperimento che perché le scoperte non è che sono fatte in modo deterministico, cioè uno vuole scoprire raggi X, uno vuole scoprire la penicillina oppure gli effetti sedativi del potassio di bromuro, sono tutte nell'anestesia, ecco. comunque l'anestesia è la mia preferita, perché io ce la racconti, ce la racconti come nasce l'anestesia. Orrore del dolore come tutti, ma c'era questo dentista americano che aveva assistito a una dimostrazione pubblica in cui c'era una persona che era inebriata dal gas e si ferì accidentalmente, però non se ne rese conto minimamente. Siamo nel 1844, quindi un bel po' di tempo fa. Cosa ha fatto West? Dice, bene, prova su di sé l'effetto, ovviamente, no? E vede che funziona, quindi inizia a tirare denti a tutti e vedeva che l'etere, per esempio, funzionava. Prima prova sugli animali, poi su se stesso, e inizia così a praticare le estrazioni dentarie in narcosi. Ecco. Beh, insomma, io pensavo che l'anestesia nascesse con il whisky, in tutti i film che abbiamo sempre visti, esatto. I film sì, western, era un bicchiere di whisky. Il bicchiere di whisky e il bastoncino, prima e il bastoncino di togliere nei denti. Il proiettile nella gamba si beve un bicchiere di whisky, sì. Lo sanno tutti, certo. Pensavo fosse quello. Un altro per esempio è anche il Prozac, no? Sì. Il Prozac era partito da uno studio sugli antistaminici e invece lì si ritrova in mano quello che poi divenne uno dei psicofarmaci più diffusi nel mondo, il Viagra. Nel 92 sono stati scoperti gli effetti collaterali di questa molecola dal nome impronunciabile alle 9 del mattino, Sildenafil, che era studiata per la cura di patologie cardiovascolari, no? Invece poi sì, è dimostrata molto utile questo piccolo effetto collaterale che ha avuto un clamoroso successo. A me piace la teoria degli errori, per esempio per quanto riguarda una cosa molto meno divertente e più prosaica, cioè il mondo del lavoro, cioè l'approccio dei ragazzi nel mondo del lavoro oggi. Senti molti che giustamente coltivano dei sogni e puntano tutto in quella direzione, invece a volte andando per errori, facendo esperienza e cominciando da cose completamente collaterali, da fare il barista a io ho cominciato a lavorare pulendo il bagno di una casa di cura, di lì è nato un incontro che poi mi ha fatto cominciare a lavorare. Ecco, questo mi piace molto, perché lì un errore che porta poi dei bei risultati. Ma cosa fate dalla voi? Folgorazione sulla via di Damasco alla folgorazione nel cesso della casa di cura sono diverse. Sono folgorazioni diverse. Non è stata una folgorazione, è stato un incontro. Vedi? Però voi cosa fate oggi in concreto a Bologna? Diamo un paio di appuntamenti. Allora, è una giornata ricchissima, quindi per sbaglio ho messo tutto quello che avrei voluto vedere. Per sbaglio? Dunque, prima... Sì, cioè quella cosa che diceva sul lavoro prima mi ha abbastanza colpita, perché è profondamente vera. Lavoro in Italia non ce n'è, tanto vale che però uno coltivi le proprie passioni, almeno fa fatica e acquisisce frustrazioni per portare avanti una propria illusione, un proprio sogno. Certo. No? Ecco, io sono di questo avviso, è per questo che ho pensato anche la giornata mondiale dell'errore. Per quello che riguarda la medicina, per esempio, è un tema che mi appassiona da quando ero piccola. Io ho 52 anni, quindi quando ero piccola erano tanti anni fa. Mio padre mi portò a 8 anni dal medico Desole, già il nome, no? Desole, ti fidi? Come, assolutamente, scusi? Di un Desole, Sole. Sole, Desole. Il medico Desole. Sì. Allora, bambina di 8 anni, dice, vieni dal medico che mi hanno tolto gli adenoidi delle tonsille, vieni dal medico che ti deve controllare, perché erano ricresciute. Vado a questo medico che inizia a lodarmi per i miei occhioni belli, per quanto ero brava e carina, e dice, apri la boccuccia. Mi immobilizzo l'infermiera con la testa da dietro, mi mettono una morsa nella bocca e mi strappano gli adenoidi così, senza neanche avvisarmi. Allora, questo fu un oggetto di discussione con mio padre, no? Gli dicevo, ma scusa, cioè, potevi avvisarmi, mi sarei preparata. Io mi sto, no? sentendo male a questo racconto. Mi assicuro che non è stata una cosa gradevolissima. E lui diceva, sì, però è un dolore che provi in un secondo. Se ti avessi preparato, tu avresti sofferto per 5 giorni prima. Invece, beh, là, ti tira via. Ma è una cosa che un tempo si faceva esattamente così. Le tonsille, si dice che uno va, però, perché anche mia mamma mi racconta così, che poi li infilarono un cucchiaino in bocca. Vabbè, e con un cucchiaino tolsero le tonsille. Scusate, ma sono 9:30 del mattino. Sono 9:30. No, però è interessante la teoria. È meglio prepararsi per 5 giorni e soffrire, oppure no? Oppure, ecco, vede, la giornata dell'errore vuole insegnare proprio questo. questo, che non è che ci sia una soluzione giusta per tutti. Sì. Si fanno delle scelte, è chiaro che si sbaglia, però io credo che l'unica alternativa all'errore e all'accettare l'errore sia la morte. Cioè, quando sei morto non fai errori, non fumi, non ti innamori, non ti smarrisci, però non hai alternative. Non lo possiamo sapere, nessuno di noi è ancora morto, quindi non lo possiamo sapere. Magari da morte si fanno un sacco di errori pazzeschi, non lo possiamo dire. Non me lo auguro. Comunque la giornata di oggi si svolge così: all'inizio ci sarà inizia alle 15 in Cappella Farnese, Palazzo D'Accursio, la sede del comune, e abbiamo invitato uno di quelli che è considerato forse il più grande esperto di placebo al mondo. Si chiama Fabrizio Benedetti e farà una lezione sull'effetto placebo. Guarda, avevo detto una cosa molto interessante, uno studio di Science, dove viene sottolineato che viene fatto questo esperimento. Due gruppi di malati di Parkinson vengono sottoposti a una cura che in realtà è fatta con una soluzione fisiologica, effetto placebo, e gli dicono: questa cura, quindi con acqua fresca, diciamo. Esatto, acqua fresca. Sì, no, era per sintetizzare. Esatto, allora, questa cura costa $1,000 e quest'altra, sempre effetto placebo, lo sottolineo, costa $100, no? Beh, vi assicuro che i malati che hanno preso la soluzione fisiologica, il placebo di $1,000 hanno avuto effetti più positivi. Cioè, l'importante è crederci. Con questo ci salutiamo. Giustissimo. Grazie Clelia Sedda. Grazie tutto mille. Il resto degli appuntamenti li trovate sul sito dell'Error Day. Oggi si celebra a Bologna questa giornata dedicata agli errori. Noi tra poco parleremo ancora di medicine per scoprire dove buttarle quelle scadute, insieme a Rossano Ercolini, la nostra rubrica Dove lo butto. La grande difficoltà comunque è chiamarlo anche Error Day. Posso dire che con la mia R moscia mi sembra che quello sia il nome più difficile di sempre. Error Day, io lo chiamerei il D dello sbaglio. Bello, il D dello sbaglio, tra l'altro tutto italiano, quindi dillo in italiano, ricordiamo sempre la petizione. Luigi da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dunque, buongiorno. Ero sul divano con la mia fidanzata Paola, che sta guardando la televisione. Mi squilla il telefono, un numero che non conosco, e una voce sensuale di una ragazza mi dice: ciao, come stai? E io faccio: ciao Luca, come va? Tutto bene? Ma perché mi chiami Luca? No, sai, siamo qui, io e Paola stiamo guardando la televisione. Ma proprio non la riconosci la mia voce? E faccio: no, guarda Luca, stasera non usciamo, penso che rimarremo a casa. Ma ascolta bene, non riconosci veramente la mia voce? Ma guarda Luca, se usciamo ti chiamo, però penso di no. Senti, sono la sorella di Paola, me la passi? Scusa Luigi, però perché ti sei andato a incasinare facendo finta che fosse un uomo invece che una donna, poi fra l'altro con la sorella della tua fidanzata? Non potevi dire subito: scusi, ma lei chi è? Cioè... No, siccome avevo avuto tante ex fidanzate potevo avere discussioni con la Paola, che era molto gelosa. Questo quando avveniva, Luigi? Mi piace l'espressione... Scusa, vai, rispondi. No, parliamo di una decina d'anni fa. Ho preso una serie di mazzate. Non adesso però state ancora insieme? No, non siamo più. Ecco, vedi, io lì che volevo arrivare. Le premesse non erano proprio idilliache, diciamo. Non so e come mi piaceva dire. L'espressione: il mio numero era ancora in giro. Perché è per dire che eri ancora su piazza, diciamo. Facendo io l'assistente di volo, diciamo che il mio numero mezza Italia lo aveva, per cui insomma era ci stai svelando. Quanto è durato il fidanzamento subito dopo questa telefonata, in termini di ore? È andato avanti altri 6 anni, ma perché eravamo assieme da pochi mesi, per cui ero anche giustificato, diciamo. Infatti poi ho cambiato numero e non ho più avuto di questi problemi. Poi hai cambiato fidanzata e hai risolto tutto. Il vecchio numero. Esatto. Va bene. Grazie mille. Ciao Luigi, grazie, buona giornata. A te buona giornata. Ecco, tra poco poi naturalmente sceglieremo, insomma, il racconto della vostra gaffa, il vostro errore. Abbiamo detto, a volte dagli errori nascono cose grandiose. Abbiamo appena sentito il racconto di Clelia Sedda sul Festival dell'Errore a Bologna. Insomma, daremo il premio, un cesto di prodotti biologici locali offerti da Povegliano Veronese, uno dei comuni virtuosi. 800 24 00 24, ci fermiamo un attimo. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora abbiamo ancora un po' di ascoltatori. Cominciamo con Gabriella da Cremona. Abbiamo qualche tweet, qualcosa, Carlo? Qualche sms che vogliamo dire prima di Gabriella? No, no, sentiamo Gabriella. Sentiamo Gabriella. Curioso. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, un giorno ho bisogno di un'informazione per chiedere dove abita una certa famiglia. Sì. Suono, permesso, avanti. Dico, scusate, non sono un testimone di Geova, volevo chiedere un'informazione, ma noi siamo testimoni di Geova? Erano marito e moglie giovani che mi rispondono così, noi lo siamo. No, cioè, ma aspetti un attimo, mi sembra straordinario. Cioè, lei una domenica va a citofonare a caso perché non sa se una certa famiglia abita in quel palazzo o meno, sveglia dei testimoni di Geova e dice: mi scusi moltissimo, io non sono un testimone di Geova. E loro dicono: no, no, siamo noi testimoni di Geova. Mi sembra una storia bellissima, signora. Scusi, poi a quel punto, Gabriella, cosa avete fatto? Cioè, lei è rimasta lì, immagino, pietrificata. Sì, ma dico, ma Dio, mi sento molto in imbarazzo, però volevo chiedere se abita qui la tal famiglia, in questo palazzo. E gliel'ha andata l'informazione? Sì, gliel'ha andata, sono stati gentili. Va bene, Gabriella. Svegliare i testimoni di Geova la domenica mattina è un antico anche sogno. Lei ha avuto una sfiga clamorosa, perché cioè, non è che sono tantissimi i testimoni di Geova, quindi ha beccato proprio quelli. E poi le è uscita fuori dalle labbra, ma le gaffe sono così, cioè proprio ti portano dove mai immagineresti. Grazie, Gabriella, bella questa anche. Questa grazie di aver chiamato e buon sabato. A parte invertite, no, sulla soglia di casa, in genere sono loro che stanno fuori e tu sei dentro. Allora, abbiamo adesso Cleto da Genova intanto, buongiorno. Non c'è Cleto? Sì, eccolo, sì. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo raccolare un errore che poi è venuto a mio vantaggio. Tanti anni fa, quando si poteva ancora circolare liberamente nel centro storico di Genova, io arrivai nella piazza dove abito da un senso vietato. Qui trovai un vigile che di schiena è un po' lontano rispetto a me, faceva una multa a un'altra auto. 4-4, parcheggiai la macchina e uscì. Quando fui fuori, questo mi disse: lei è in contravvenzione. Io dissi: perché? Perché lei viene da un senso vietato. E io gli chiesi: ma lei, non è vero, ma lei come fa a saperlo? Dice: me l'ha detto quel signore là, indicando uno in borghese con un blocchetto di multa che io avrei dovuto vedere, stava facendo le multe anche lui, invece non lo vidi, e dissi al vigile che mi voleva fare la multa: ma lei crede al primo cretino che incontra? E lui mi disse: un mio collega in borghese. Scoppiamo tutti e tre a ridere e non mi fecero la multa. Ah, meno male, una risata l'ha salvata dalla multa. Sì, sì, me la sono scapolata. Lei ha anche una voce bellissima, se accetta un complimento. La ringrazio. Una specie di Alberto Lupo. Dovrebbe venire a sostituirmi in radio, che ha una voce molto più bella della mia. Esatto, quando vuole c'ha il numero. Certo, adesso se ci ha sentito il capo dei vigili urbani ma sono tanti anni fa che non ci sono più quelli. va bene, grazie. Beh, questo era simpatico proprio perché è un caso in cui l'errore non si può fare. Si trasforma in una cosa inattesa, ma anche dai risvolti positivi. Adesso poi forse evitare una multa, no, non è un si può fare, ho sbagliato, era un eccesso d'emozione. Per una volta ci mettiamo dalla parte del cittadino automobilista vessato, diciamo, dalle multe dei vigili urbani. Adesso, a proposito di vigili urbani, è il momento di parlare di una vittoria per i ciclisti pendolari dell'Emilia Romagna. Vai. Stasera mi butto con te e faccio di tutto per stare con te. Allora, buongiorno Sara Poluzzi. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Qua. Abbiamo sbagliato introduzione musicale, non c'entra nulla. Stasera mi butto, era per Ercolini. Non la stavamo invitando a buttarsi con la bicicletta. Parte. Assolutamente. Allora, dunque, una storia nata qualche tempo fa con una petizione e con un finalmente un risultato positivo che Sara ha raggiunto. Ha convinto Trenitalia a tornare sui suoi passi. Ci vuoi raccontare di cosa si tratta? Certo, a fine dicembre è stato annullato l'abbonamento Treno più Bici, e quindi che con un sovrapprezzo è stato l'abbonamento personale, consentiva di trasportare le bici su tutti i treni prevede l'Emilia Romagna. Un abbonamento conveniente, abbastanza conveniente era? Un abbonamento sì, che con 122 euro consentiva di trasportare la bici per un anno. E tu Sara lo fai spesso, no? Sei una pendolare, anzi quotidianamente porti la tua bici sul treno. Sì. Che tragitto fai? Bologna Imola. Come, scusa, non abbiamo capito? Bologna Imola. Bologna Imola. Cioè parti la mattina da Bologna sulla tua bicicletta, vai in stazione. Esatto, e poi una volta raggiunta la stazione di Imola raggiungo il lavoro in bici. Bicicletta. Ma quanto costa invece la bolla? Questo costa 122 euro, ma senza bicicletta invece quanto costerebbe? Così capiamo quanto costa portare la bici. Sarebbe, in realtà sarebbero 400 e qualcosa euro per me, più 122 euro all'anno. Ah, perfetto, per la bici. Chiedo scusa, non avevo capito. Quindi i 122 euro sono la bicicletta, che è più o meno 10 euro al mese. Esatto, scusate ma non sento molto bene, si interrompe anche la linea, quindi voi sì. Sentite bene? No, stavamo facendo i conti di questo abbonamento. Okay. Quanto costava questo abbonamento? La ripeticelo un'altra volta che non abbiamo capito. Costava circa 10 euro al mese. Solo per la bicicletta, stiamo parlando. Esatto. Ed era una cosa conveniente per te che sei una ciclista e che tra l'altro giustamente quando questa cosa ti è stata tolta hai detto ma io ho fatto risparmiare anche un sacco di inquinamento in giro, anziché andarmene in giro con la macchina, ogni mattina pioggia, vento, freddo, salgo in sella la mia bicicletta, faccio anche una fatica, c'è un abbonamento conveniente, me lo tolgono, perché a un certo punto te l'hanno tolto. Esatto, è stato tolto e quindi è stata lasciata come unica possibilità quella di avere un biglietto giornaliero da 3,50 euro e quindi moltiplicato per tutti i giorni in cui io utilizzo la bici vorrebbe dire circa 800 euro all'anno. Ah, quindi praticamente un bel il doppio. 700 euro in più, no? Un 700 euro in più. No, perché sì. Gli 800 è compreso dei 400 euro di cui ci dicevi che costa l'abbonamento. Sta diventando complicatissimo. No, non è complicatissimo. È così, 3,50 euro. No, i 400 euro non li lasciamo a parte, non li consideriamo. Sto parlando solo del supplemento della bici. Quindi erano 700 euro in più per portarsi la bicicletta sul treno, Carlo. Esatto, prendi perfetto. Appunti. Allora, quindi cosa è successo? Sì, ti sei un po' arrabbiata quando hai visto questa cosa, giustamente. Sì. Esatto, quindi ho cominciato su Facebook, ho cominciato a condividere la cosa, ho trovato molto consenso, sono andata a cercare le associazioni che lavorano su questi temi e abbiamo fatto fronte comune e per farlo breve praticamente hanno cominciato i giornali e le radio anche come voi a parlarne. E poi in breve tempo, in brevissimo tempo, per come di solito vanno queste cose, abbiamo incontrato l'assessore Donini, assessore ai trasporti dell'Emilia Romagna, dopo due settimane per in Italia e praticamente dopo neanche due mesi l'assessore ha annunciato la creazione di un abbonamento a 60 euro, quindi la metà del prezzo precedente. Addirittura meno di quello di prima. A tutti saresti accontentata di non arretrare e invece in questo caso è addirittura migliorata la situazione. Ma quindi la decisione chi l'ha presa? Allora, i trasporti, per quanto comunemente ce la si prende con Trenitalia, sono di responsabilità regionale, quindi Trenitalia è un fornitore della regione. Sì, fa un contratto con la regione. Esatto. Poi comunque la petizione che abbiamo lanciato all'inizio dell'anno non è solo regionale, va detto. Quindi Emilia Romagna è una prima vittoria. Ormai siamo degustiamo perché quando ci siamo sentiti l'altra volta ero io solo che disperata. Sola contro tutti, Sara contro tutti. Invece adesso questa cosa sta diventando nazionale. Però Sara, siamo 58.000 perché nella petizione è stata sottoscritta da 58.000 persone. Abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Bici più Treno e lavoriamo quotidianamente per coinvolgere associazioni sui territori delle varie regioni per riprodurre un po' quello che è successo in Emilia-Romagna. Noi pensiamo che sia una cosa sacrosanta e tra l'altro diciamo su questa battaglia nazionale ti seguiamo, è una cosa da incentivare perché insomma fa bene a tutti andare in giro in bicicletta, c'è meno inquinamento, meno traffico e quindi bisogna incentivare chi comunque fa uno sforzo, perché ricordiamolo, d'inverno, pioggia, vento eccetera, non è scontato. Anche ricordare esatto, sì. Ma anche ricordato che bici più treno costa un decimo di quanto costa l'auto e che i tempi di viaggio rispetto all'auto molte volte sono inferiori, quindi è qualcosa sì. che non è solo faticoso ma è anche conveniente. Sì, esatto, giusto, sì, debitamente incentivato. Noi siamo dei pigri e quindi ci soffermiamo sulla questione della fatica. Beh, ha ragione però, dice, non sì. è solamente una fatica, è anche un fatto che è un grandissimo vantaggio e ne guadagna anche la tua vita. No, ne guadagni anche il portafoglio e la salute, se debitamente incentivato. Sara, però volevo farti un'ultima domanda prima di salutarci. Sono molti quelli che stanno fanno come te, cioè quando tu vai a portare la bici sul treno a Bologna, quante altre bici ci sono? Ma più o meno ce ne sono? Diciamo, ancora non sono tanti, c'è da dire anche questa cosa, infatti è un punto interessante. Le bici sono sempre di più. Ah. E questa cosa che è successa in Emilia Romagna ha funzionato però un po' da richiamo anche. Io spero che siano sempre di più, perché l'abbonamento che c'era l'anno scorso, sì. oltre ad essere stato cancellato nella dimenticanza di tutti, non era neanche tanto utilizzato, perché non è mai stato sponsorizzato, mai stato pubblicizzato. Perché purtroppo okay. su queste cose c'è una comunicazione abbastanza deficiente, perché mancante proprio. Ma ci piace anche deficiente. Ci piace molto anche deficiente. Come deficiente latino. Mettiamola così, Sara. Abbiamo appena parlato del Festival dell'Errore. Allora, da questo errore di Trenitalia, che ha tolto il tuo, l'abbonamento di tutti quelli che portano la bici sul treno, un abbonamento conveniente, adesso c'è stata una retromarcia che sta, come dire, aprendo un po' la strada, è caduta una diga, e adesso tutti in Italia vogliono questo abbonamento. Quindi da un errore si arriverà, speriamo, a una vittoria per tutti. Dal primo aprile, ricordiamolo, in Emilia Romagna ritorna l'abbonamento, è possibile acquistarlo dalla fine di marzo. Ma solo in Emilia Romagna questa cosa o presto sarà in tutta Italia? Non ho capito questo. È questo che sta dicendo. Solo in Emilia Romagna, poi per il resto stiamo lavorando vari assessori delle varie regioni. Lavoriamo. C'è un gruppo in Toscana molto attivo. Piemonte, c'è stata un'interrogazione regionale, poi man mano io adesso ho contatti con tutta Italia, con l'associazione di tutta Italia, anzi inviterei le associazioni che sono interessate sì. a lavorare su questo a contattarmi. Diamo l'ultima volta il contatto così poi ci salutiamo. Il gruppo Facebook Bici più Treno, sì. Bici più Treno. La petizione change.org/bici più treno. Bici più treno, facilissimo. Grazie, Sara Poluzzi. Ciao. Ciao, grazie. Grazie. No, la cosa che mi chiedevo è se nasce in questa cosa in Emilia Romagna, anche un po' per il fatto che in Emilia Romagna, essendoci molti tedeschi che vanno in ferie, i tedeschi sono abituati spesso a viaggiare con la propria bicicletta, forse se questa cosa qua ha aperto la strada. Quindi speriamo che anche tutte le altre regioni si adeguino a bici più treno. Traffico. Sole, scoprire il mondo che c'è. Niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, avete ancora tempo per portarvi a casa un cesto di prodotti biologici a chilometro zero, provenienti dal comune virtuoso di Povegliano Veronese, chiamandoci e raccontandoci le vostre gaffe, i vostri errori. Non fate l'errore di non chiamare. Ecco, bellissima questa. A chiosare, potremmo anche chiudere qua. No, anche perché però non lo so, perché uno fa l'errore di non chiamare, forse è l'errore migliore, quindi lui dovrebbe vincere il cesto. Solo che noi come decidiamo a chi dare il cesto, a colui tra coloro che Io non hanno chiamato? Potremmo darlo a Rossana Ercolini, che non ha risposto alla nostra chiamata. Dovevamo fare con lui la rubrica Dove lo butto. Rossana Ercolini è sempre in giro. Ma abbiamo trasformato a presentare il suo libro Non bruciamo il futuro, e però adesso doveva risponderci al telefono. Chissà, forse sta rispondendo, Rossana, vediamo. Anche perché la rubrica sta per diventare Dove lo butto Ercolini quindi sì. Adesso vedrai che risponde. Vabbè, intanto sentiamo ancora un ascoltatore, Francesco da Napoli, buongiorno. Buongiorno a tutti e sempre complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un ascoltatore silente, solo del sabato però oggi il recesso era invogliante per chiamare e partecipare. E la domenica cosa fa? Come mai non ci ascolta? Diciamo che ti posso un po'. Ah, ma iniziamo un'ora dopo, apposta per lei. E ci proverò. Allora, va bene. Io ho dovuto un attimo violentarmi e scegliere tra quella più bella. Ce l'hai ne ha fatte tante di gaffe. Lei è un gaffer, è un gaffer. Magre figure. Ne dico una di quelle più dicibili. L'ultima, sì, diciamo, va? L'ultima. Noi anni fa, io e mia sorella avevamo una tua scuola, sì, qua a Napoli. Qualche mese fa, un incrocio pieno di traffico, eccetera, eccetera, ci fu un casotto e una signora non mi diede la precedenza. Insomma, stavamo facendo un macello. Scesi dalla macchina, la riempì di improperi, di cose. Ma chi cazzo ti ha dato la patente? Lei scese, tu. Ce l'ha riconosciuto? Assolutamente sì, la riconobbi poi io da facendo mente locale. Però, era l'istruttore che le aveva rilasciato a lei la patente. Francesco, però lei ha commesso una grandissima imprudenza più che una gaffa, perché avendo un'agenzia, insomma, di una scuola guida. Molti anni fa. Avevo dimenticato la cosa. Erano passati molti anni. Sì, sì. Beh, non è male questa, non è molto assolutamente buona. Male, Francesco. Può capitare a tutti quelli che. Se volete che dico, sì? Una lì che fosse era meno dicibile. Era un po' cattiva. Eravamo ragazzi, insomma, intorno ai 20 anni, adesso ne ho, sì, 50, e ci trovavamo in un biliardo. Questo forse un po' cattivella. E insomma, il gestore era una persona handicappata con una sola gamba. Insomma, voleva forse farci uscire, dai, dobbiamo chiudere, aiuta. Io gli dissi: senti, Luigi, finisci e ti ci penso l'altra gamba. E lui? Niente, non parlo. Ma sta cosa mi è rimasta dentro, però. Era stata brutta. Si è sentito colpevole per aver fatto una battuta così. Fu fatta così. Va bene, era giusto. Grazie, Francesco. Dobbiamo salutarci. Era giusto ricordare anche una di queste gaffe veramente brutte, atroci, come in questo caso. Quelle dove ci si vergogna tantissimo. Sì, se l'altro, diciamo, ha senso dell'humor molto forte, magari si mette a ridere anche lui. Se non è una litigata. E spesso ricordiamo che persone che sono portatori di handicap in realtà hanno molto più senso dell'umorismo. Allora, degli altri e di coloro che li giudicano. Dobbiamo chiudere, dobbiamo dire chi ha vinto. Allora facciamo l'elaboratore, il cervellone della redazione Si può fare. Vince, però dovete mettermi il nome, perché io ho ben presente l'ascoltatrice, ecco. Hai ben presente la figuraccia? La figuraccia che era quella di avere scambiato Dario Fo per Arnoldo Foà, ed era Concetta da Modena. A lei ce l'abbiamo, gli applausi, forse sì, forse no, è lo stesso. Va con o senza applausi, gli arrivano sicuramente un cesto di prodotti anche tipici. E soprattutto per la reazione di Dario Fo, che ha detto sì sì, sono io, Arnoldo Foà. Cioè, infatti è creato un secondo me mezzo bellissimo. Cesto dovrebbe andare dritto a Dario Fo, che ha detto ma stai zitto, non far finta di niente, fingiamoci Arnoldo Foà. Va bene, chiudiamo qua con i saluti anche per oggi. Un grazie ad Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Daniele Buonamici in assistenza in diretta quest'oggi, Carmelo Locella in regia. Noi ci sentiamo domani, chiaramente. Ciao a tutti, ci vediamo stasera al Messico alle 21 per il film Patria. Ci saranno anche Francesco Pannofino e il regista Felice Farina. Un saluto a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, anche a chi ci ascolta in podcast.